140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Festeggiano i 25 anni del primo album di successo ripubblicandolo e portandolo in tour. Con Zighidà 25 tornano gli Statuto. Oscar e Nasca. Un obiettivo che 25 anni fa, o anzi 33 anni fa, quando abbiamo iniziato a suonare, mai avremmo potuto così neanche sognare i nostri sogni più folli di riuscire a essere così ancora in attività e riuscire a sopravvivere, insomma, a vivere di musica dopo tanti anni. 25 anni perché nel 92 noi partecipavamo al Festival di Sanremo. Anzi, l'avete vinto! Abbiamo vinto il Festival di Sanremo. E usciva questo disco qui che era già comunque una specie di greatest hits dei pezzi che noi avevamo già composto, erano già usciti alcuni sui dischi con le etichette indipendenti, quindi era già una summa di quello che era il nostro lavoro dei primi nove anni di attività. E essere di nuovo qui dopo 25 anni a parlare ancora e soprattutto ripubblicarlo e suonarlo dal vivo, insomma, è tutto un loop che si è creato, quindi siamo felicissimi di questo. Quel 92 è stato un anno importante perché da una scena che vi conosceva perché appassionati di un certo tipo di musica, ma anche di un certo stile di vita, possiamo dire, certo, vi siete presentati al pubblico, poi il pubblico dell'Ariston, ragazzi, sì, vi conoscevano tutti. Che ricordo avete? Un ricordo bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo, noi ci siamo presentati al Festival di Sanremo, tra l'altro in maniera molto molto titubante, noi quando ci hanno proposto di scrivere una canzone che parlasse del Festival di Sanremo, come se non l'avessimo vinto e facesse una critica in maniera molto ironica di questa manifestazione. Era a settembre e l'abbiamo scritta, ci hanno detto che era piaciuta la casa discografica, bene, allora noi la scriviamo, facciamo che scriva la selezione, sicuri che veniste censurate, ci hanno detto loro, così questa cosa vi farà promozione e la facciamo uscire in contemporanea al festival. Ma fantastico, cioè voi avete fatto una canzone su un input della casa discografica pensando che non sarebbe stata presa. Sì, sicuramente. Poi noi abbiamo fatto il nostro disco, abbiamo registrato l'album appunto Zighidà a Firenze in novembre e a gennaio da un TG1 delle 1:30 abbiamo saputo che noi eravamo fra le nuove proposte del Festival di Sanremo e a quel punto non ci volevamo andare perché avevamo paura di perdere la nostra integrità, di perdere la nostra credibilità, commercializzarci e tante altre cose. Poi però abbiamo fatto sapere la cosa a vari mozzi in giro per l'Italia e la cosa invece se andate, perché si parla del movimento mod, si parla della vostra musica, poi noi in maniera credibile, quindi perché già siamo rimasti così. Poi abbiamo fatto una bella votazione in Piazza Statuto con gli altri mods, 73 favorevoli, 73 votanti, 71 favorevoli, uno astenuto e uno contrario, quindi siamo andati e la storia poi ha detto che abbiamo fatto veramente bene. Raccontiamo cos'era in quel periodo, cos'era per voi il movimento dei mods? È la stessa cosa che lo è attualmente, perché è un movimento che nasce a fine anni 50 ma sempre in continua evoluzione, arricchimento culturale, una cultura multietnica, la prima cultura multietnica completamente fuori dalla politica che ci sia mai stata al mondo, quindi fonde insieme la cultura afroamericana, giamaicana, europea, e sia dal punto di vista estetico che da quello comportamentale, quello ideologico, cerca sempre di arrivare un po' prima a trovare il meglio in tutte le cose. Noi abbiamo messo nel disco precedente una specie di ritornello che vuole essere un manifesto, dice rimi di metropoli, abiti impeccabili, suoni multietnici, siamo noi, e questo vuole essere un po' il manifesto di quello che è il senso della vita mod. Che ha ancora senso nel 2017? Certo, è fuori dai tempi nel senso positivo, cioè non è, noi in Piazza Statuto ci troviamo regolarmente come da allora e non ci siamo solo noi, per fortuna ci sono, anzi a maggior numero, la maggior parte delle persone sono dei ragazzini, ci sono varie generazioni, dai 40, 50, ai 16, 20 e tutti quanti, quindi questo vuol dire che è sempre una cultura che ha sempre saputo aggiornarsi. Di Sanremo, abbiamo vinto il festival. Di Sanremo, abbiamo vinto il festival. pubblicato Zighidà com'era, aggiungendo qualcosa, come l'avete trattato? Sì, è stato rimasterizzato, poi abbiamo aggiunto due B-side che erano uscite all'epoca e poi c'è la versione 2017 di Qui non c'è il mare con Caparezza, che è stato anche il singolo che ha trainato l'uscita di questo disco. Poi c'è un bonus, un CD bonus con un live della tournée del 1992, appunto era una cassetta che era particolarmente ben registrata, suonata abbastanza bene, l'abbiamo anche lì ripulita e rimasterizzata, pompata un po' nei suoni, e l'abbiamo messa in questa deluxe edition, come viene definita adesso. Quindi insomma c'è tanta carne al fuoco in questo disco qua. Un disco, sempre un sacco di date, com'è il pubblico che vi segue, che vi cerca, che vi compra? Beh, c'è anche lì, come diceva prima Oscar, per Piazza Statuto c'è il quarantenne o il cinquantenne che veniva già all'epoca adesso, con a fianco di ragazzi molto più giovani che vengono che ci hanno scoperti così in questi 34 anni di carriera, e insomma evidentemente qualcosa è stato seminato, qualcosa è cresciuto, perché comunque se un ragazzino magari 17-18 anni conosce una canzone di 30 anni fa e ce la viene a chiedere al concerto, insomma qualcosa è arrivato. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con gli Statuto. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.